Beh, la Lazio sta molto bene, all'Inter, tutte e due squadre, la Lazio e l'Inter vogliamo tantissimo bene e sono contento che stanno lottando con la Juventus, che sono tanti anni che vince a continuazione. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Fin dall'inizio questo sarebbe stato un campionato diverso. Penso sia stimolante essere lì a giocarsi il campionato e probabilmente essere lì a giocarsi il campionato fino alla fine. L'anno scorso chi diceva che la Lazio è arrivata ottava, io gli dicevo ai ragazzi che non dovevano sentire che la Lazio era arrivata ottava, ma che avevano vinto una Coppa Italia, che avevano battuto l'Inter e l'Atalanta, che a tre partite dalla fine avevamo pensato solo a quello, che sennò probabilmente saremmo arrivati sesti, ma noi dovevamo centrare l'obiettivo e l'obiettivo l'anno scorso era la Coppa Italia. Se vogliamo essere grandi, e secondo me oggi noi non lo siamo, partite come queste le devi gestire, ecco, invece fin dall'inizio si è vista un po' di irrequietezza, ecco, diciamo irrequietezza. Davide Scattone, Andrea Roccabella, e questi erano ovviamente Sarri, Conte, Inzaghi, cioè i duellanti. Io adoro questo periodo dell'anno tra gli altri motivi perché comincia la Champions, ricomincia la Champions League, o forse ho detto bene, comincia la Champions League, tanto che Pierluigi Pardo è a Madrid e stasera, eccoci, subito partitona, Atletico Madrid-Liverpool, sinceramente Liverpool sembra partitasso, che beh, comincio, è anche la stagione in cui comincio a invidiarti pesantissimamente, ma questa è un'altra storia. Alberto Zaccheroni, buongiorno mister. Buongiorno. Ciao. Hai attraversato tutte le duellanti, Juventus, Lazio e Inter. Io direi che dal punto di vista delle panchine, Inzaghi in questo momento è in vantaggio su Sarri e su Conte per il lavoro che sta facendo, Alberto. Dici Simone? Sì, Simone. No, Simone sta lavorando in un ambiente diverso, con meno aspettative, meno pressioni. Però ha sicuramente in questo momento la sua squadra è più collaudata, da più garanzie delle altre, è più continua nelle prestazioni. Le altre stanno cambiando, sono partite con un'idea e in questo momento la stanno cambiando notevolmente, a cominciare dalla Juve. Se andiamo a guardare come partita, è partita con un 4-3-3 se non sbaglio, e poi è passata al rombo centrocampo. E poi da ultimo, secondo me, guardando un po' la disposizione, mi sembra più, soprattutto quando c'è Douglas, ma anche ultimamente mi sembra più un 4-4-2. Non è un po' tardi per gli esperimenti, con un 4-3-3, ma per me è un 4-4-2 in modo tale da liberare Cristiano Ronaldo e a turno Higuain. Non è un po' tardi per fare esperimenti, Alberto? Siamo un po' avanti, infatti se andiamo ad analizzare, questo è il sistema, è cambiato nel tempo, se andiamo ad analizzare quello che conta, che è la prestazione individuale dei giocatori, onestamente li vedo tutti in calo. Rispetto all'inizio, li vedo meno brillanti, meno pimpanti, meno determinati, meno convinti. Questa è la sensazione che ho io. Secondo me Sarri si sarà reso sicuramente conto che la squadra si sta adagiando un pochino e lo abbino un pochino al discorso che ha fatto Sarri ultimamente. A molti giocatori individualisti, e mi sa che stanno prendendo più quell'orientamento lì. sì, rispetto a quello di collettività. Sì, mettendoci anche il piano fisico, perché è un momento delicato anche da questo punto di vista. Credo che la partita del prossimo mercoledì a Lione sarà già un test attendibile, perché la Juventus non può già sbagliare più niente, Pierluigi. Sì, sì, è tardi, ma non è ancora tardissimo, se mi passi l'espressione, nel senso che poi ricordiamo che la grande svolta di Allegri nacque in quel famoso Juve-Lazio più o meno a questo punto della stagione. Quello che è un po' inquietante sono le tendenze, cioè gli exit poll, perché sicuramente delle ultime partite non si è vista la migliore Juventus, si è vista una squadra appunto anche dal punto di vista delle prestazioni individuali un po' in affanno e con delle caratteristiche che non sono proprio parte della storia recente della Juve, quindi con qualche calo di concentrazione che ti aspetteresti da chiunque tranne che dalla Juve, e quindi è sicuramente un momento non semplice, però non è ancora esclusa secondo me la scintilla, cioè ancora siamo, no, certo, però ammetterai che è una curiosa, sì, creatura, no? È uno strano essere la Juventus, non è più quella di Allegri, non è più quella di Allegri, non è ancora quella di Sarri, che cos'è non si capisce bene, però ripeto, mercoledì prossimo a Lione è già una partita dentro fuori per molti motivi, per molti piani, per molte strategie. Sono partite da playoff, anche in cui ci gioca anche il futuro della Juventus, di Sarri e tutto quanto. Mister, invece, l'Inter, che ha perso due confronti diretti su tre, ha vinto 1-0 all'andata con la Lazio, ma quella era un'altra storia, un altro film, un'altra Lazio. Tu dicevi, sta cambiando anche l'Inter, per amore o per forza? Sta cambiando in entusiasmo, mi sembra che ha anche una buona dose di entusiasmo che ha mostrato all'inizio della stagione, ma adesso le ultime prestazioni hanno evidenziato che c'è un calo anche in questa squadra. È una squadra che sta trovando, mi sembra che gli avversari abbiano intuito un aspetto importante, quello di chiudere le verticalizzazioni dopo la prima uscita. Quando escono sono riusciti a uscire dall'area di rivore, la loro giocata principale è quella di andare a cercare Lukaku. E soprattutto le ultime due partite, che hai perse entrambe, cioè gli avversari hanno collocato un giocatore davanti a Lukaku. Adesso con il Milan non l'hanno perso, però il primo tempo l'hanno sofferta moltissimo, perché Benassar si è piazzato davanti a Lukaku. E non trovando questa verticalizzazione, perché poi sopra la linea della palla niente, non è che ne ha tenuti tantissimi giocatori ultimamente, anche Lautaro, guardavo l'ultima partita con la Lazio, era sempre appiccicato a Lucas Leiva, sì, anche nella metà campo della Lazio, sì. E quindi tu davanti avevi solamente Lautaro, e se non esci col palleggio in quel momento non riuscivano, hai l'unica soluzione appunto appoggiarti Lautaro e servire con il resto della squadra. Chiaro. Non diciamo Conte che fa contropiede, se no sarà come una bestia. Poi l'intervista di domenica sera a Conte l'abbiamo vista tutti, era in difficoltà a spiegare la partita, ha detto che i giocatori non sono sereni. Sì, non sono sereni, le pressioni, hai ragione quando dici che a Roma, a Sponda Lazio in questo momento ce ne sono molte meno rispetto a quanto ce ne siano a Torino e a Milano, ma può essere un problema inserire un giocatore come Eriksen, anche per quanto dicevi tu, cioè ci sono cose che gli avversari si aggiustano e quindi magari prima ti riuscivano, adesso non ti riescono più. Uno come Eriksen può sparigliare le carte anche dal punto di vista del modulo, può diventare un problema inserire Eriksen. A me sembra una follia che diventi un problema inserire un giocatore così. Sono d'accordo. Io, pur avendo fatto l'allenatore tantissimi anni, ho sempre pensato che le partite le vincono i calciatori, ma non i calciatori di per sé, i calciatori di qualità che ci mettono anche la quantità. E che non è sempre semplice, perché a volte ti ritrovi dei giocatori a fine carriera, di qualità a fine carriera, che non hanno più voglia di mettersi lì e metterci la quantità. E attorno a questi giocatori di qualità che tu collochi dove si possono esprimere al meglio, solitamente ci metti dei giocatori che ti fanno il lavoro sporco per gli altri, no? Sì, sì. Quelli che ti fanno vincere le partite. Ecco, io credo che le squadre vadano disegnate così. Uh-huh. In questo discorso ci entra dentro pieni titoli Eriksen, che è un giocatore di qualità e solitamente se tieni in considerazione quei parametri che ho menzionato prima, lo devi mettere necessariamente al centro del progetto, perché al centrocampo un giocatore così di qualità l'Inter non ce l'ha. Però conosce meglio di me gli uomini che ha a disposizione, perché poi conta anche la testa, come ragionano questi giocatori, perché la squadra è fatta di... Anche di equilibri e di tutte queste cose, però esatto. A me sembra davvero una cosa diversa Eriksen. Strano, perché sentivo parlare Alberto Zaccheroni dell'Inter e riflettevo sul fatto che possono essere gli stessi pensieri che ha Sarri, no? Una squadra è fatta di quantità, qualità, di equilibrio, devi far brillare i campioni che hai, Pierluigi. È un discorso praticabile anche alla Juve, applicabile in toto anche alla Juve. No, è il discorso fondamentale dal quale passa la differenza tra vincere e non vincere, perché è evidente che abbiamo la fortuna di raccontare un campionato in questo momento con tre eccellenze assolute. Sì. Sono tre squadre che stanno facendo tutte bene, la Juve in valore assoluto comunque sì, poi forse in relazione al suo potenziale a qualche punto in meno di quello che si poteva immaginare, la Lazio neanche a parlarne, ma anche l'Inter sicuramente, se facciamo un paragone con il punto di partenza, sta facendo bene, però poi si arriva a un momento in cui si deve decidere chi vince e chi si accontenta degli applausi e del grazie lo stesso, e questo momento comincia ad avvicinarsi. Io credo che sull'Inter ci sia veramente la necessità di cambiare qualcosa. Sono d'accordo col mister, insomma Eriksen è un giocatore al di là dell'investimento economico e del valore in assoluto, è un giocatore che secondo me è qualcosa di diverso rispetto a quelli normali, e soprattutto un po' di questa prevedibilità e un po' del logorio che lo stesso Conte ha denunciato legittimamente, perché insomma l'Inter non ha avuto un girone d'andata semplicissimo dal punto di vista degli infortuni, dal punto di vista degli uomini, quindi io su questo tema do perfettamente ragione a Conte. Ecco, però allora adesso deve provare anche a fare qualcosa di diverso. C'è sempre un margine di rischio ovviamente nel cambiare le cose, però io credo che questo sia un cambiamento fondamentale, perché altrimenti secondo me l'Inter alla lunga potrebbe pagare qualcosa, e mi pare che in queste ultime due uscite si sia già visto, insomma, una certa prevedibilità. Cioè, poi il mister l'ha spiegata benissimo nel dettaglio, ma che ci sia meno imprevedibilità rispetto a qualche tempo fa, questo è evidente. Beh, ma questa è una bella stagione, Piero, anche perché c'è il cambio degli armadi, bisogna introdurre qualcosa di nuovo, lo fanno tutte le grandi squadre. Dimmi Alberto. No, volevo solamente evidenziare, secondo me, un dato di fatto che l'Inter sta facendo in questo momento, soprattutto a riconquistare la palla nella metà campo avversaria, perché si difende a 5, sì, quindi ultimamente ha sempre riconquistato la palla molto bassa, e davanti ha solamente due attaccanti, perché poi dopo da dietro, arrivando da molto distante, diventi imprevedibile, ti leggono prima, e quindi sta qui secondo me le poche occasioni rispetto alle prime gare di campionato che ha a disposizione per far gol in Liga. Sì, lettura perfetta mi pare. D'altra parte, dicevo, è un periodo importante perché tutte le squadre si aggiustano. Tu giustamente prima, Pier, citavi la Juventus di Allegri, come nacque quella Juventus, nacque in questo periodo. Evidentemente l'Inter di Conte ha bisogno di cambiare qualcosa rispetto all'inverno, perché i tempi cambiano, gli avversari si adeguano per tutte queste ragioni. Poi è vero che il livello della... adesso là davanti la lotta è bellissima, non c'è nessun campionato in Europa che abbia una lotta in testa come il nostro. Siamo tornati alla sfida Juventus-Napoli di due anni fa. D'altra parte, hai sentito quel vecchio marpione, quella faccia da gambler di Klopp? Cosa ha detto Pierluigi? Aveva detto, ma non capisco perché la Juventus, che è una squadra pazzesca, non abbia 10 punti di vantaggio su tutte le altre. Gli hanno detto, ma sei sicuro? Lui, no, ma non state tanto ad ascoltare quello che dico, io parlo senza riflettere, dovrei stare più zitto. In effetti ho visto Lazio-Inter, e ho capito perché la Juventus non ha tutto quel vantaggio. Che bravi, che forti che sono. Facciamo così, la favorita è il Paris Saint-Germain, così la pressione ce l'hanno loro. Vabbè, numero uno assoluto, Pier. Ma sai, in Champions League comunque la pressione dei favoriti non esiste. Può esistere semmai un certo tipo di aspetto ambientale. È chiaro che la Juve ha perso talmente tante finali della sua storia che ci sta che la Champions, che ha vinto così tanti scudetti nella sua storia, perché per questo l'ha detto, no? Che è inevitabile che la Champions League sia un pensiero, sia un chiodo fisso, è la cosa più logica del mondo, più umana del mondo. Ma in assoluto le favorite in Champions non ci sono, perché la Champions per sua natura è ancora più liquida e imprevedibile, sì, rispetto ai campionati però nazionali. La sensazione è che in questo momento la squadra che commenterai, che racconterai tu stasera, e non quella di casa ma quella che gioca in trasferta, insomma, il ruolo di favorita se lo debba pigliare per forza. Guarda cosa stanno combinando in campionato, è una cosa irreale quello che stanno facendo in assolutamente prima, irreale. 25 vittorie e un pareggio, quindi di che stiamo parlando? No, è qualcosa di incredibile, di assurdo e di assoluto. Però io dico onestamente, per me la Juve come valori non è lontana, la Juve per me come valori non è lontana, è in quel gruppo di 4-5 squadre che hanno quella qualità lì. Quindi sì, certo. Adesso vedremo se cambierà qualcosa, ma guarda, potersi pure cambi qualcosa. Io capisco le inquietudini del popolo bianconero in questi giorni, perché le ultime prestazioni sono state veramente così, però poi magari questa è una squadra che semplicemente ha bisogno di fare un click mentale, insomma, ad oggi ha gestito una situazione che è stata quasi sempre di vantaggio in campionato. E vedremo se questo click arriverà, ecco, insomma, sì, però la sensazione è che non arriverà, se arriverà non arriverà così tanto attraverso il gioco, attraverso un'idea, una fisionomia di squadra molto ben definita, questo famoso benedetto sarrismo, ma arriverà probabilmente attraverso la forza delle individualità di questi giocatori, anche la crescita della condizione dei singoli. Scusate se insisto, però Alberto, è possibile che si sia lavorato per averli pronti, mercoledì, prima tappa importante, però averli pronti tra 20 giorni. Io vedo tanti giocatori della Juventus sotto ritmo. Cominciare da Pjanic, esatto. un giocatore indispensabile per una squadra che ha ambizioni e che vuole giocare soprattutto nella metà campo avversaria. Ma quando hai... Noi allenatori vogliamo tutti avere a disposizione i migliori giocatori del mondo, e dopo questi tutti insieme lavorano per la squadra nel momento in cui c'è il risultato importante a portata di mano. Il problema ce l'abbiamo ad accompagnarli a quella fase, la cosiddetta fase finale, e la Juventus, secondo me, il problema non è neanche tanto fisico, è proprio un problema di, in questo momento vedi anche questi giocatori che escono dal campo, gli attaccanti soprattutto, che a turno sono costretti a giocare part time, quando escono dal campo hanno sempre qualcosa da ridire. Questo non aiuta. Però se è stabilita quella dialettica lì ormai, io ho l'impressione alla Juventus tra gli interni. Non è assolutamente positiva, perché incide non poco. Non è un caso che finisce lì dopo due minuti è già passata. Poi dopo la squadra ci ragiona sopra, ci pensa, e sicuramente rende la squadra inevitabilmente, poi dopo rende la squadra maggiormente prevedibile nel momento in cui vai scendi in campo e vai a giocare. Sì, però non è positiva, hai ragione, quella dialettica. Però è un organico importantissimo, è un organico che poi nel momento caldo della stagione sicuramente farà la differenza. Ti dico una cosa estrema, quella dialettica non è positiva, però l'importante è che sia democratica, cioè se vale per tutti questo così. Lamento anche piuttosto pubblico, piuttosto evidente, è importante che valga per tutti, perché altrimenti sarebbe... Però è difficile che valga per tutti, lo sappiamo bene, no? Senti, quanto è lontana la Juventus ad esempio dal Liverpool, che secondo me è la punta dell'iceberg in questa Champions? Perché Pierluigi diceva che la Juventus non è poi così lontana, e nel gruppo dei 4-5 certamente. Come potenzialità, non come rendimento adesso come rendimento. C'è tanta distanza, però come potenzialità secondo me non sono due universi così lontani. La differenza a mio avviso sta nella propensione, nella disponibilità dei giocatori qualitativi, soprattutto quelli qualitativi, a interpretare le partite in un determinato modo. Nel Liverpool hanno acquisito una filosofia globale, tutti i giocatori l'hanno sposata e stanno dando tutti per interpretare le partite in quel modo. Alla Juventus in questo momento il progetto non è guardando quello che succede sul campo condiviso fortemente da tutti. Probabilmente, come dicevo prima, aspettano la fase più calda. Sì, aspettano. Si compatterà di più la squadra. In questo momento non la vedo così compatta. Non mi vedo giocare con entusiasmo, con un sangue negli occhi, come dovrebbe essere. Sì, perché loro vogliono anche stupire, vogliono vincere, ma quest'anno volevano anche stupire, volevano fare un calcio diverso. Sì, volevano dominare in qualche situazione gli avversari, cosa che non sono mai riusciti a fare. Ti chiedo un'ultima cosa, poi non so Piera. Il Milan, guardando anche a quello che è successo ieri sera, sta aggiustando le sue statistiche, sta aggiustando un po' la classifica. Il problema è che viaggia sempre senza mete precise, sia dal punto di vista della classifica che per discorsi più grandi societari. Io credo che la rabbia di Ibrahimovic di ieri sera, che nonostante abbia vinto la partita sia andato via con la faccia un po' così, come è stato notato da tutti, e Pioli stesso lo ha ammesso, può essere una rabbia positiva, però la rabbia di Ibra dopo una vittoria possa dimostrare il fatto che ci sia troppa inquietudine in quella squadra lì. Sì, anche se rispetto a fino a poco tempo fa mi sembra che la tifoseria abbia capito che non può pretendere più di tanto in questo momento, cosa che fino a poco tempo fa appunto non è successo. C'erano più fischi, c'erano più lamentele, c'era più insoddisfazione. In questo momento la gente secondo me ha capito maggiormente il momento e non si aspetta più di tanto. Non mi sembra che i tifosi del Milan si aspettino più di tanto. Il Milan deve ancora trovare una sua identità ben precisa. Pioli è uno che sul piano tattico, io sempre ritenuto uno dei migliori allenatori che abbiamo nel nostro paese, però ancora la squadra non ha un'idea ben precisa, per non riuscire perlomeno a farlo con una certa velocità, una certa continuità che sono indispensabili. C'è una anche se qualche giocatore è cresciuto, perché Rebic anche Kessié un pochino si sta riprendendo rispetto a qualche partita fa. Il problema è che è cresciuto, la squadra è cresciuta intorno a Ibra, però Piero, l'importante è che quel fatto che il pubblico, che la gente non si aspetta poi così tanto, non si trasformi in rassegnazione, perché quello sarebbe triste. Piero. No, beh, sai, la classifica non è insomma, soprattutto se ti chiami Milan. Insomma, se sei il Verona, il Parma, il Cagliari, con tutto il rispetto, stare in quel punto di classifica significa sognare qualcosa di storico. Se sei il Milan, è chiaro che insomma una qualificazione all'Europa League, magari strappata in extremis nel finale, non è che insomma possa, credo, creare chissà quali suggestioni, chissà quale entusiasmo. Però mi sembra che Ibra, da questo punto di vista, abbia un po' risvegliato l'interesse complessivo. Forse lui si aspettava una situazione più semplice. Forse si aspettava di poter incidere ancora di più di quanto sta facendo, però questo non lo so, insomma una mia sensazione così dall'esterno. Però insomma è ovvio, cioè il Milan, torniamo sempre al solito discorso, esiste una differenza che rimane enorme nonostante l'arrivo di Ibra, nonostante il miglioramento evidente delle ultime partite, tra la storia anche recente di questo club e il presente. Il tema è, ma soprattutto molti punti interrogativi sul futuro, perché un conto è dire ok, adesso sto attraversando queste tappe abbastanza faticose della Via Crucis per arrivare a un punto preciso. Quel punto preciso sinceramente adesso non si vede. Io saluto Alberto Zaccheroni girandogli però un WhatsApp di un ascoltatore che vuole un tuo parere, Alberto, su Gattuso. Cosa ne pensi del lavoro di Gattuso? Improvvisato stregone oppure pianificatore brillante? Scrive l'ascoltatore. Lino ce la vuole dura perché lì recentemente è stato distrutto. Adesso forse distrutto non è neanche termine giusto, comunque sicuramente è stato rotto un giocattolo che stava funzionando molto bene. Una squadra che si si riconosceva nel giocare in un certo modo, i giocatori erano tutti più o meno su uno standard di prestazione importante. Poi dopo, dalla questione del ritiro, dalla vicenda del ritiro, sì, lì c'è stata una sovrapposizione di responsabilità, di ruoli, no? Perché io credo che sulla squadra debba intervenire solamente l'allenatore. Poi la campagna acquisti la può fare anche il presidente, è successo tante volte, succederà ancora, però sulla squadra poi dopo, quando fare allenamento, quando dare il ritiro, quando gli orari, li deve decidere solamente uno. Certo, i giocatori, certo, hanno bisogno di un riferimento. Credo che l'allenatore, lo stipendio non lo paga l'allenatore, però nel calcio ci sono delle regole non scritte e secondo me la leadership dell'allenatore deve essere chiara, credo che di qui alla fine avremo dei momenti brillanti, dei momenti meno brillanti. Rino, voglio bene, mi auguro che riesca a trarre il meglio, perché l'organico è un organico importante. L'organico, lo sottolineo, è un organico veramente importante. C'è l'imbarazzo della scelta, però il problema è portare tutti questi giocatori di qualità alla loro prestazione media, al loro rendimento medio, che in questo momento è fortemente al di sotto. Abbiamo visti tutti giocare meglio. Che il valore assoluto del Napoli e dei singoli giocatori del Napoli sia superiore al prodotto della stagionale, non ci sono discussioni. Alberto, grazie, mille grazie davvero. Ciao, a presto. Vediamo Antonio da Isernia e poi salutiamo Pierluigi Pardo che passeggerà tra le vie di Madrid in attesa della partita. Antonio, buongiorno. Buongiorno, salve. Ecco, senta, volevo chiedere sia a lei che a Pierluigi Pardo. Allora, prima di tutto al Milan fai ritornare Ibrahimovic, però hai una difesa che è un colabrodo, prima di tutto. Poi, secondaria cosa, è più un problema di allenatore o diciamo della rosa della squadra molto di più in qualità che in quantità? E poi, Antonio, io credo. Solo una terza cosa. Ma parliamoci chiaro: ma in questi ultimi 3, 4, 5 anni, anche 6, tutti questi allenatori che si sono succeduti al Milan, ma sono tutti migliori di Donadoni? Cioè, secondo me, l'allenatore del Milan, e non solo, secondo me, deve essere uno solo, Donadoni. Lì credo sia questo dei gusti, però che sia Donadoni, Gullit, Van Basten, Sacchi, Rijkaard o l'onnipotente, credo la situazione del Milan non cambierebbe di molto se non vengono sistemati anche lì problemi molto a monte, cioè quelli societari, più che gli allenatori sono state cambiate troppe società, troppe gestioni, troppi uomini di vertice, credo, che non è più all'altezza di quello degli anni precedenti. Sono d'accordo sulla difesa con Colabrodo, anzi secondo me nella prima parte della stagione la difesa era il reparto, premesso che poi non si può ragionare con i settori del campo separati uno dall'altro, però insomma secondo me la difesa tutto sommato era il settore che teneva di più. Il Milan aveva un problema di pericolosità offensiva nella prima parte della stagione che in parte ha sistemato. Poi sì, certo, c'è il secondo tempo del derby che è stato sicuramente negativissimo dal punto di vista difensivo e quindi rimane nella testa dei tifosi, ma insomma io credo che il Milan sia in una situazione quello è, non vedo un margine. Ecco, mentre sul Napoli sicuramente sono d'accordo con Zaccheroni, c'è un potenziale nettamente superiore a quella che è la classifica. Il Milan sta lentamente, gradualmente, anche grazie all'energia, alla scintilla che ha portato Ibra, recuperando qualche posizione, come era logico che fosse, magari qualcun altro la recupererà ancora, soprattutto se le altre, vedi la Roma, dovessero continuare a bucare in maniera clamorosa. Io arrivo a dirti che se arrivano sesti, ma se arrivano sesti hanno fatto loro, cioè rispecchierebbe il valore di questa squadra. Se Milan arriva a sesto, hanno fatto quello che dovevano. Grazie Pierluigi, sentiamo domani. Ciao, ascolto stasera. Ovviamente in Atletico Madrid Liverpool Borsa, torniamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. Brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo disordine è una forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Di grazie al cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono. C'è un problema. Scusate, che sta succedendo? Lo chiedo io, che sta succedendo? Marino Bartoletti, dottor di Buongiorno. Rispetta chi ti ci ha portato su quel palco, eh? Questo voleva dire, secondo me, il direttore artistico, richiamandoti all'umiltà, perché so che stai facendo delle cose straordinariamente importanti. Hai fatto missioni più o meno rivelabili. Il direttore artistico ha voluto, come dire, riportarti coi piedi per terra, però il direttore artistico, secondo me, che leggo nel pensiero, ti ha dedicato anche un'altra canzone per onorare un grande che oggi compirebbe 80 anni. Vediamo se la regia mi segue. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. E direi che possiamo finire qui. Ragazzi, io non riesco a commentare. Da un lato mi cospargo il capo di cenere e ritorno a nello scantinato dell'umiltà, e dall'altro lato mi commuovo per varie ragioni, compreso il fatto, anzi soprattutto per il fatto di sentire Maestro De André, che oggi avrebbe compiuto gli anni. Ciao Leo Turrini. Io sono sempre qui con il suo vero Cormano, e certamente chi voi è? Vorrete conoscere chi è il responsabile stavolta? Purtroppo al casello Padelli ha sbagliato il portiere dell'Inter anche qui. E quindi si è creato un ingorgo mostruoso e si è sparsa anche la voce che per risolvere il problema dell'estremo difensore l'Inter voglia rivolgersi a Bruno Vespa per una puntata speciale che è azzurra di Porta a Porta. Ma voglio completare il discorso, mi ha fatto molto piacere l'omaggio di Andrea, perché io sono uno di quelli, essendo molto molto molto anziano, che ha visto il formidabile concerto di Andrea PFM nel 1979. Posso dirlo con orgoglio, io ero là, ed è uno dei più grandi momenti, credo, della storia della canzone popolare italiana. Quindi mi fa piacere che in coincidenza del compleanno e il recupero al cinema di quello spettacolo formidabile il nostro direttore artistico abbia voluto renderti omaggio con Carlo Martello, che peraltro voi sapete, posso dirlo, chi ha scritto il testo di Carlo Martello? Ve lo dico io. Chi l'ha scritto? L'ha scritto un coetaneo di Kimi Raikkonen, vale a dire Paolo Villaggio. E quindi, come vedete, ci siamo tutti, iniziano anche il test della Formula 1 domani. Certo. E la domanda è: ma Padelli perché ha sbagliato un sito anche? Ma povero Padelli, adesso ve la pigliate tutti con lui, non sapete più con chi prendervela, ve la prendete con Padelli. Io potrei anche dire: dal Padelli alla brace, poi se volete vado avanti, abbattetemi e fucilate. Io lo so, conduttore, che qui si vuol parlare di calcio, di automobilismo, se no poi scrivono gli haters, però è giusto che tu sappia che io e Turrini siamo i due vecchietti che, gonfi di vino, avvinazzati, un po' avvelenati, andavano a farsi dire Micio Bello e Bamboccione nei Carrusi di Genova, e abbiamo ispirato tanti anni fa Fabrizio De André. Tra l'altro oggi compleanno di un genio, e il compleanno da ricordare di, appunto, di Andrea, che sarebbe stato un genio. Allora, questi giorni, Marino, 17 Valentino, il 16 Valentino ha compiuto gli anni, il 17 guarda caso Marc Márquez, ma anche Michael Jordan, il 18 Baggio e ricordiamo De André, il tuo è il 30 di gennaio, quello di Leo il 18 di marzo, vado a giocarmi tutti questi numeri. No, puoi far suonare Aquarius, Aquarius. E poi non hai detto il 15 febbraio, che è il compleanno di Fausto Cigliano, che è quello che cantò Esse Domani, che è stato riportato sul palco anche quest'anno meravigliosamente. Ma credo che stiamo andando un pochino fuori tema, se non per onorare le nostre mamme, che a maggio facevano il loro dovere. Maggio dell'anno prima, naturalmente. Aspettatemi un attimo e torno subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Tutti convocati. Prima di andare sui giorni belli dei test di Formula 1, altro dei motivi per cui mi piace questo periodo dell'anno, perché ricomincia la Champions e per tante altre ragioni, primi vagiti di primavera, tra l'altro, senti Marino, ma il tuo amico Sarri, nato il 10 di gennaio, ti ha chiesto in questo periodo notizie e informazioni su Giulio Ciccone, nato il 20-12? È entusiasta di Giulio Cicconi, Sarri, naturalmente. Tu lo sai che io vorrei chiederti altre cose, poi la prendo alla larghissima, ma poi si pensa a Turrini a riportarti in carreggiata. Il dialogo su Cicconi è un grande argomento di conversazione con il mio amico, sì, Maurizio Sarri, che aspetto a marzo. Quindi ci siamo, possiamo transare anche su fine febbraio, ma io sinceramente lo aspetto a marzo, dai. Cioè per il compleanno di Leo il 18 di marzo? Ovviamente sì. Sei soddisfatto, Leo? È soddisfatto della, del dribbling con il maestro Marino quando dice che, soprattutto se pensiamo al vero motivo per il quale la Juventus si è messa in casa Sarri, avendo Allegri vinto 5 campionati di fila, non è che si possa sostenere che ha cambiato la guida tecnica perché perdeva in Serie A. Hanno portato Sacchi a Torino perché vogliono alzare la coppa con le orecchie. Quindi è giusto dire che è solo da marzo in poi, quando torna la Champions, entra nel vivo, che si comprenderà se questa soluzione è stata azzeccata o azzardata, hai capito? Cioè, fin dei conti, poi adesso stiamo parlando, non voglio esagerare, ma di niente, cioè Sarri è primo in classifica e aggiungo io da interista, ahimè, ma d'altronde Padelli mi ha sbagliato l'uscita qui a Casello sulla Piero Cormano e io sono qui immobilizzato, cosa vi devo dire? Vabbè. Adesso sarà tutta colpa di Padelli, anche il coronavirus è colpa di Padelli. Io per Padelli ho un affetto straordinario, è chiaro che poi così uno vede certe cose e rimane un attimino, come dire, perplesso, se non addirittura basito, ecco, mettiamola così. Ma facciamo anche i complimenti a Skriniar, che lì all'Olimpico contro la Lazio, cosa posso dirti, mi sembrava buco a Sanremo, un po' fuori posto, ecco. L'interista è d'altra parte celebre per la ricerca e la scoperta di capri espiatori ovunque, no Marino? Ma guarda, stavo riflettendo sulle sagge parole del mio socio sul fatto che per vincere gli scudetti sicuramente bisogna avere un 11 importante, ma voi mi insegnate anche dal 12 in poi viene da ragionare un pochino, e forse le tre pretendenti allo scudetto di questo momento, che hanno eccellenti portieri, forse non hanno alle loro spalle il massimo della potenzialità sostitutiva, correggetemi se sbaglio, adesso non voglio parlare male di Garibaldi, e cioè di Buffon, però io penso che il signore delle rispettive squadre debba essere molto generoso con la salute dei portieri delle rispettive squadre, perché poi le campagne acquisti si fanno, si disfano, tra l'altro mi sembra che l'Inter abbia fatto cose molto importanti a gennaio, così raccogliendo un pochino anche qualche lamentela di Conte, forse la Juventus poteva fare di più perché non ha fatto niente, la Lazio parte dal fatto che è servita, non deve fare la Champions. Ecco, sui portieri secondo me storicamente qualche riflessione bisogna sempre fare. Beh, ma d'altra parte il secondo portiere è un lavoro a sé stante, eh? Tu ti ricorderai certamente Alessandrelli che faceva il numero 12 di Dino Zoff e non giocò praticamente mai, quindi credo che quel ruolo lì sia davvero un lavoro a sé stante, non fa il portiere, fa il secondo portiere, è scritto sulla carta d'identità. Sì, ma è verissimo, proprio per questo deve avere un'attitudine all'essere pronto in ogni momento che non tutti i portieri possono avere. Adesso lunga da me la demonizzazione del povero Padelli, però un conto è giocare tutte le settimane, un conto è avere quel colpo d'occhio, quell'affiatamento con la difesa, che forse sono stati carenti nella partita dello scorso weekend. Certo, Leo, ti faccio sentire cosa ha detto il signor Zanardi. Essere pilota Ferrari significa avere in mano il testimone per un pezzo della strada di un cammino che poi dopo viene portato avanti da altri, perché ciò che conta davvero è la Ferrari, non è, arrivo a dire, nemmeno chi la guida, però poterlo fare nella vita è tanta roba, e avere anche l'occasione per magari trionfare con una Ferrari renderebbe sicuramente il ricordo di un pilota come Lewis Hamilton nel tempo quasi eterno. La Ferrari credo abbia tutto per vincere. Quello è l'esame di laurea. Lewis Hamilton, che è nato 3 giorni prima di Sarri, ovviamente per calendario il 7 di gennaio, insomma, potrebbe laurearsi nella storia euromondiale. Noi lo diciamo con un sempre, titolo alla Ferrari. Cioè, banale, ma è giusto ed è vero che chiunque abbia il desiderio di fare il pilota di automobile da corsa coltiva il sogno un giorno di vincere con la vettura rossa, benissimo. Detto questo, io credo che Hamilton al momento non abbia intenzione di venire a Maranello, mi aspetto che abbastanza presto allunghi il contratto con Mercedes, perché ha delle motivazioni molto solide, non parlo di aspetti economici, per rimanere dove si trova, nel senso che lui ormai, l'abbiamo raccontato tante volte qui dalla Pero Cormano, corre contro la storia, corre contro il record di Schumi dei 7 titoli, e per quello che noi abbiamo visto nelle ultime stagioni è abbastanza possibile, se non addirittura probabile, che lui arrivi a 8 mondiali guidando questa maledetta bellissima freccia d'argento, capisci? Allora chi glielo fa fare di venire qui da noi finché non è arrivato a quota 8? Dopo poi magari si può vedere, ma adesso io non credo, tant'è vero che guarda, la Ferrari ha iniziato a dialogare, a chiacchierare con Vettel sull'ipotesi di prolungargli il contratto. Perché sanno che Hamilton almeno per il 2021 non sarà disponibile. Vabbè che abbiamo fatto tornare Ibrahimovic, però prendere Hamilton oltre i 40 mi sembrerebbe davvero troppa roba perfino per noi, Marino. Sì, anche perché comunque bisognerebbe dargli una macchina all'altezza, e qui torniamo ai vecchi discorsi, mi sono messo nei panni del mio amico Savio da Faenza, detto porca vigliacca, sì. Che ascoltando Leo sicuramente avrà avuto un momento di sconforto. Apro una parentesi per dire che l'ho conosciuto di persona, perché sabato è venuto nella mia Forlì, dove per la prima volta in vita mia mi hanno invitato a presentare uno dei miei libri. Posso dire una cosa su Zanardi? E così cito anche un altro amico, sono sicuro che faccio contento te, Leo, e tutti gli amici che ci ascoltano. La scorsa settimana sono andato a Imola, dove è stato presentato Voglio Correre, il docufilm dedicato al dottor Costa, tutto attaccato. Io spero che vada in circuito questo film, perché è una lezione di vita, di storia, di umanità, di cultura, di coraggio, di tutte le cose che possiamo attribuire al dottor Costa. Il testimonial di questo film è proprio Zanardi, che ricordiamo l'ha assistito al dottor Costa quando ricevette i caschi d'oro, il casco d'oro di Autosprint, e si alzò per la prima volta sorretto da Costa, disse: sono così emozionato che mi tremano le gambe. Lui rideva, tutti quelli che erano lì piangevano. Grazie ragazzi, come sempre, come sempre, grazie Marino Bartoletti e Leo Turrini. Sipario, Claudio Schiattone, nostro autore, e Andrea Roccabello oggi in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.